Europa 24. Se prendo una multa in un paese europeo, mi arriverà a casa? Per dare una risposta affermativa al dubbio dei conducenti e per far pagare a tutti le multe prese all'estero, ora c'è un accordo europeo. Prima si veniva rintracciati solo se c'erano accordi con il paese in cui si viaggiava. Adesso, con l'intesa tra il Consiglio europeo per la sicurezza stradale, ETSC, e la Rete europea delle polizie stradali, TISPOL, siglata l'11 dicembre, varranno per tutti i 28 paesi membri le nuove regole per la cosiddetta applicazione transfrontaliera delle multe, quelle per eccesso di velocità, ma anche il mancato rispetto del rosso e la guida in stato di ebbrezza. Ci vogliono solo alcuni step per dare il via al nuovo sistema. Il testo dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e recepito dagli Stati membri nel giro di 5 mesi. Ma è dal 2011 che si aspetta, perché, numeri alla mano, l'eccesso di velocità sarebbe la causa principale di un terzo degli incidenti mortali in Europa e, secondo la Commissione europea, i guidatori stranieri sono in media il 5% del traffico europeo, ma sono responsabili del 15% delle infrazioni per eccesso di velocità. Oltre ai turisti, poi ci sono anche quelli che immatricolano l'auto all'estero proprio per non pagare le multe. E qui entra in scena la legge che facilita e velocizza la notifica dei verbali della polizia stradale di ogni paese europeo, che avrà sotto mano le informazioni sul veicolo e sul proprietario e invierà lettere standard scritte nella lingua del destinatario. Alla multa sarà allegato un modulo che servirà per indicare chi guidava l'auto al momento dell'infrazione e che conterrà le indicazioni su come pagare la sanzione. Nessuna scusante. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.